Ma quanto ci piace questa musichetta 8 bit di prima mattina? Per me è ormai fondamentale, Damiana, fondamentale. Una buona mattinata a tutti, sono le 8 e 59 minuti, un minuto giusto manca alle 9, che è l'orario di arrivo di Pensatech, la nostra trasmissione dedicata al digitale e alle nuove tecnologie. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori, una buona giornata a Elisabetta Tola accanto a me e dall'altra parte del vetro una buona giornata anche a Marco Guglielmino. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, a te Damiana e naturalmente Elisabetta. E allora questa mattina torniamo a parlare di videogame, perché c'è tanto da dire e sicuramente ce ne sarebbe veramente molto. Allora noi abbiamo deciso di fare una seconda puntata per aggiornarvi su quanto non detto la settimana scorsa. In quanto non detto ed è tanto, mi sono distratta un attimo perché stanno arrivando i primi Twitter. Ah, addirittura. No, i primi tweet sul nostro account Twitter. Allora Elisabetta, magari ricordiamo subito. Esatto, i nostri contatti. Subito. Il nostro contatto Twitter che è chiocciola Pensatech col CH. Vi avevamo chiesto la scorsa settimana di dirci a cosa giocate, quali sono i vostri giochi preferiti e insomma nel corso di queste giornate alcuni dei nostri follower ci hanno raccontato un po' che cosa, a cosa giocano e quindi poi magari qualche spunto lo diamo a Damiana e però ritorniamo proprio su questo tema perché abbiamo aperto un po' uno sguardo sul mondo dei videogames e però la settimana scorsa quasi tutti gli sviluppatori di videogames della zona stavano a San Francisco perché c'era Game Connection, una grande fiera, la più importante fiera del settore. Alcuni sono tornati, non tutti forse, ma alcuni sono tornati dalle nostre parti e quindi oggi avremo modo di sentire un po' chi lavora proprio nel concreto, chi progetta e sviluppa videogiochi. Io però vorrei ricordare un numero che è quello del giro di mercato che risentiremo sicuramente adesso anche dal nostro Glossatech, il mercato internazionale. Il mercato italiano è comunque un mercato molto importante, parliamo di quasi 1 miliardo di euro, quindi i videogame sono tutt'altro che solo un gioco, solo un passatempo, sono anche una fetta importante di lavoro per chi appunto sta in questo settore. Quando si dice con il gioco non si mangia, così come con la cultura non si mangia, non è vero, sappiamo che non è vero, anche lì oltre a passione e divertimento circola anche l'economia e non dimentichiamocelo. Ricordiamo i nostri contatti perché vogliamo sapere a cosa giocate, perché giocate, se fate giocare i vostri piccoli, magari se gli fate usare il tablet oppure avete tirato fuori dal cassetto, dal l'armadio, la vecchia console. E allora l'SMS è il 348-76-49-289, la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma come ci ricordava Elisabetta prima, noi siamo anche su Twitter, quindi @Pensatech con il CH, e ci potete scrivere anche sulla pagina Facebook di Radio Città del Capo. Volevo dare soltanto i primi suggerimenti, Damiana, che sono appunto quelli che sono arrivati via Twitter. Qualcuno ci dice: confesso, sono un pessimo giocatore, amavo Tetris e Super Mario sul Commodore 64, Beyond Dark Castle su Mac a suo tempo. Poi c'è, beh, insomma, un altro tweet che ci arriva, dice: no, io sono sempre stato un amante di Civilization e SimCity, al momento però gioco a Bioshock Infinite, oppure sulla Wii, la Wii per le feste che va alla grande. E poi la saga più videoludica di tutti i tempi, Zelda, e poi ancora Angry Birds, Razzle, Puzzle Bubble, Monster World, Tetris. Insomma, si sono decisamente scatenati i nostri follower per raccontarci appunto un po' a cosa giocano. Vi segnalo anche che dall'account del Twitter di Pensatech che trovate anche una simpatica vignetta che abbiamo postato settimana scorsa. Questa vignetta è quella di Zero Calcare, conosciuto come disegnatore fumettaro nerd, e insomma descrive una simpatica situazione dell'approccio che hanno le generazioni di chi ha giocato molto da piccola con la console e si trova magari con degli strumenti nuovi con cui giocare, e si dice da una parte, insomma, sono 36 secondi che gioco ad Halo 4 e non ci capisco niente, mi ha già rotto, e io ero bravo a Super Mario, e Zero Calcare giustamente dice grazie che eri bravo a Super Mario, quanto ci avevamo giocato a Super Mario, con l'accento romano che connota il famoso fumettaro De Roma, appunto. E insomma, quanto ci avevamo giocato a Super Mario, quanto ci avete giocato a Super Mario e quanto agli altri videogiochi, e come vi trovate adesso con questi nuovi videogiochi che magari come la Wii non... ci chiedono anche di avere una prestanza fisica, perché bisogna muoversi. Devo dire che Super Mario è tornato alla grande, lo vedo osservando proprio i più piccolini, e di nuovo protagonista, la Wii ne ha fatto un campione, quindi insomma in realtà anche la nuova generazione si sta preparando proprio a forza di Super Mario. E allora ricordiamo, per chi non l'avesse sentito settimana scorsa, che cosa sono i videogiochi, soprattutto che cosa significa il mercato dei videogiochi. V come videogiochi. In principio fu l'Atari, questa la prima società produttrice di videogiochi che commercializzò un videogioco di successo. Si chiamava Pong e dopo una prima versione a moneta approdò nelle case di molti sotto forma di console, una scatola con due joystick da collegare al televisore. Riproduceva il gioco del ping pong. Due barrette bianche che colpivano un quadratino era tutto ciò che compariva sullo schermo nero, ma il divertimento era garantito. Per chi volesse ripercorrere la storia dei videogiochi, l'omonima voce di Wikipedia è un buon inizio. Gli appassionati possono anche visitare i musei dedicati, che si trovano ad esempio a Berlino, Parigi o Roma. A Bologna, l'archivio videoludico della Cineteca raccoglie console e videogiochi a partire dagli anni 70, con un catalogo di quasi 2.900 titoli, una raccolta accessibile a tutti, gratuitamente. Descrivere in breve il mondo dei videogiochi al giorno d'oggi è un'impresa impossibile. Il videogioco come puro intrattenimento, come fenomeno culturale o come strumento educativo, la cosiddetta gamification, cioè l'applicazione delle dinamiche del gioco in realtà quotidiane, al fine di ottenere un maggior coinvolgimento. Sono solo alcune delle possibili analisi. Si stima che le entrate annuali derivate dalla vendita di videogiochi, a livello mondiale, siano tra i 60 e i 70 miliardi di dollari. Un'industria che ha superato quella musicale, ma anche una forma di intrattenimento che ormai compete con quello cinematografico. E molte figure professionali coinvolte, per citarne alcune, programmatore, designer, produttore, artista e tester, cioè colui che mette alla prova i nuovi giochi. Colui ripartiva il nostro Glossatech, colui che mette alla prova proprio i primi videogiochi. Io do subito il buongiorno a Ivan Venturi. Buongiorno. Ciao Ivan, grazie ciao. Per essere qui con noi. E ricordiamo agli ascoltatori i contatti, l'SMS 348-7649-289 e il Twitter che è @PensaTech col CH. E Ivan, un protagonista, possiamo dirlo, un protagonista degli ultimi anni proprio del mondo dello sviluppo, della progettazione di videogiochi. Sì, dipende cosa intendi per ultimi, dato che il primo videogioco l'ho pubblicato 26 anni fa, quindi diciamo che ho cofondato la prima software house italiana di videogiochi. Ecco, io per ultimi intendevo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, i videogiochi non sono ovviamente, hanno ormai un pezzo di storia, abbiamo parlato la settimana scorsa con Andrea dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna, ci ha proprio raccontato appunto un pezzo di storia, e ricordiamolo anche che l'archivio videoludico è aperto al pubblico, quindi si può andare a provare a mettere le mani anche sui videogiochi classici. Alla Cineteca, ricordiamo. Appunto, alla Cineteca di Bologna. Ivan, quindi, 26 anni fa, insomma, è un pezzo di storia. Cosa è cambiato intanto? Intanto raccontiamo, ricordiamo anche la società con cui che hai fondato e con cui lavori ora, che è Ticon Blu. Esatto, è quella con cui, diciamo, recentemente ho pubblicato il videogioco basato su Nicholas Emerick l'Inquisitore, se qualcuno ha letto i libri di Valerio Evangelisti pubblicati da Mondadori. È un videogioco che abbiamo pubblicato in Italia a novembre ed esce a fine aprile in tutto il mondo sotto il marchio Microids, che è un marchio storico del, diciamo, del mondo dei videogiochi di avventura. E è un videogioco con alcune particolarità, perché è tra le altre cose il primo videogioco in latino della storia. Ci siamo fatti venire quest'idea folle e l'abbiamo portata a termine. Un videogioco molto colto, quindi. Diciamo che anche partendo dai romanzi di Valerio, che sono densi di spessore storico, per quanto siano romanzi fiction, comunque sono perfettamente ricostruiti, non abbiamo potuto esimerci da fare una riproduzione, diciamo, di accuratezza analoga. Poi anche il latino, siamo persi nei meandri della filologia per ricostruire quello che è proprio il latino medievale, insomma ci ha preso proprio l'embolo e ci siamo appassionati in questo modo. Però diciamo che questa particolarità è anche la cosa che ci ha permesso di distinguerlo, diciamo, rispetto al mare magnum di videogiochi che al giorno d'oggi vengono prodotti, perché diciamo, io sono appena tornato dalla fiera dei videogiochi chiamata Game Connection da San Francisco, che è, diciamo, il mercato vero e proprio dei videogiochi, una cosa esclusivamente dedicata agli operatori di settore. Ho visto che comunque questa piccola particolarità, comunque, in qualche modo, nelle centinaia di migliaia di videogiochi di cui si parlava e si trattava, è una delle cose che, insomma, in qualche modo aiuta anche il commerciale a ricordarlo. Ecco, questo è un punto importante, Ivan, che noi a Pensa Te che cerchiamo sempre di sottolineare. Innovazione, naturalmente, anche divertimento. Anche senza divertimento non l'innovazione non ha senso. Ecco, non si fa nulla, non si riesce a sviluppare nulla di innovativo. E però c'è anche questo lato importante, cioè lo sviluppo anche di un settore che economicamente è interessante. Sì, cioè diciamo che noi il latino in verità non l'abbiamo fatto con un obiettivo didattico, l'abbiamo fatto semplicemente perché quando iniziai a scrivere, insomma, ormai sono 5 anni fa, la sceneggiatura del gioco e ragionavo sui dialoghi, ovviamente il videogioco è nato come videogioco di respiro internazionale, quindi non potevamo farlo come lingua madre in italiano. E allo stesso modo non mi andava di farlo come lingua madre in inglese, perché pensare a questo domenicano catalano che o parlasse come un inglese di Oxford o abbaiasse come un texano, non mi piaceva l'idea. E quindi insomma, ho pensato di farlo parlare come parlava effettivamente all'epoca, anche perché Nicholas Emerick, che è un personaggio storico realmente esistito, ha scritto il Directorium Inquisitorum, quindi il testo giuridico dell'Inquisizione, quindi si è riusciti a usare proprio il suo latino. Suo linguaggio. E quindi, diciamo, per esempio i nostri publisher francesi mi dicono che tutti i loro tester, che avete precedentemente nominato nel Glossatech, esatto. Tutti i tester l'hanno giocato in latino con i sottotitoli in francese, perché è bello. Cioè il latino è considerata lingua morta, ma se lo si pronuncia è affascinante, ha un suono meraviglioso, quindi questa è la cosa diciamo che mi premeva più di tutte, anche perché io il latino non lo so, quindi quel po' di latino che so l'ho imparato adesso. È stata una scoperta anche per te. Ivan, hai citato 5 anni, facci capire cosa significa produrre un gioco di questo tipo, allora, quindi un gioco complesso, quanta gente, quanto tempo? Allora, guarda, vado al nocciolo, nel senso parlo di tempi e di soldi, perché quelli servono a dare le dimensioni di un progetto. Diciamo, Nicholas Emerick è una saga, è una quadrilogia. Noi adesso stiamo lavorando al secondo capitolo, che uscirà in Italia in autunno, e siamo un po' avanti con la produzione del terzo e con alcune cose del quarto, e il progetto intero, cioè di tutta la saga delle dei quattro capitoli, che sono quattro videogiochi indipendenti, verrà a costare più o meno €1 milione. Ogni capitolo quindi ha un costo di €250.000 circa. Quindi comunque siamo al di sotto con quattro videogiochi completi, diciamo, con una durata di 8-10 ore l'una, in tante lingue doppiate, eccetera eccetera, è comunque un costo che sta ben al di sotto di quello che è il costo anche di un film di basso costo indipendente italiano, che magari si aggira su 1,3 milioni, 1,5 milioni. Certo. E però il potenziale, diciamo, è, poi ve lo racconteremo col senno di poi, nel senso, una volta che l'abbiamo venduto, però il potenziale è più alto di un, diciamo, di un videogioco. Ecco, e quante persone ci lavorano? Diciamo in tempi diversi, perché ci sono persone che lavorano per tutto il ciclo di produzione del gioco, altre meno, però una trentina di persone. E siamo, c'è Ticon Blu e poi c'è anche un'altra società di nostri colleghi che sta a Roma, che si chiama Imagimotion, che ha lavorato con noi fin dall'inizio. E abbiamo coinvolto un'altra società di videogiochi di Bologna che fa cose di tutt'altro tipo, ma comunque amici e colleghi, per darci una mano nello sviluppo di alcune cose grafiche, di alcuni attori 3D. E diciamo, si distingue la produzione in quattro parti, diciamo, per semplificare un po'. Una prima fase che è la pre-produzione, nella quale, diciamo, si fa il documento di design, si fa il progetto del gioco, il progetto che significa sia scrivere la storia sia tradurla in quello che è il documento tecnico, io lo chiamo storyboard tecnico, secondo il mio lessico, diciamo, messo insieme nel corso degli anni. E in questa fase si fanno anche tutti i visualizing, quindi si visualizza tutto e quant'altro, e cosa importante, alla fine di questo procedimento si ha il costo di ogni singolo pixel che apparirà su schermo, cioè nel senso che abbiamo il capitolato tecnico, per intenderci, quindi la lista di tutti gli elementi che saranno prodotti e quindi anche il costo. Quindi in quella fase lì io produttore, cioè, verifico anche che il gioco che ho progettato stia dentro i tempi e i costi che mi posso permettere. E poi alla fine c'è una fase di sperimentazione. Ecco, io devo dire una domanda un po' scema forse, però fin da bambino, quando ho cominciato a leggere le prime riviste, i videogiochi, eccetera, mi sono sempre chiesto, ma questi che recensiscono i giochi, che li provano, che li testano, ma come fanno ad arrivare lì? Perché è il sogno di ogni ragazzino, forse, no? Ma fare questo lavoro. Guarda, tu di che anno sei? Io sono dell'81. Dell'81, ecco, io ho 11 anni più di te, quindi 81, tu comunque qualcosa degli 8-bit l'hai visto. Commodore 64, i primi giochi per Amiga, mm-hmm. Forse hai visto nei primi anni 90, c'era in edicola Dylan Dog, Diabolic, sì. Ecco, questi li facevo io ai tempi di Simulmondo. Ah, ok, fantastico. E questi erano già videogiochi un tantino più grossi, ma quando ho iniziato io, all'epoca degli 8-bit, facevo un videogioco da solo, dall'inizio alla fine, quindi era... Diciamo, quindi relativamente anche il test, più semplice. Anche il test lo facevi da solo? Diciamo che avendo iniziato, cioè io ho pubblicato il primo videogioco che avevo 16 anni e mezzo, quindi... Un giovane talento, insomma, possiamo sì, dire. Sì, diciamo che ho iniziato presto, semplicemente, cioè a 10 anni, 9 anni ho visto i videogiochi, ho capito che era il mio trip, quindi non mi sono mai... Non ti sei mai tirato indietro? No, non mi sono mai mosso da lì, cioè, insomma... Adesso le cose sono un po' diverse, nel senso che... In qualche modo bisogna scegliere una strada, una specializzazione che normalmente, diciamo, può essere o più tecnica, quindi verso il lato programmazione, o più creativa, quindi il lato del disegno 2D, del fotoritocco, pixel art o della modellazione 3D, e ognuna di queste cose ha, come per la programmazione, tantissime specificità, oppure un lato più produttivo, commerciale. Quindi ormai è un vero e proprio mercato, diciamo, molto specializzato, Ivan. Ma diciamo che poi teniamo in mente una cosa, che dire videogiochi, la dico spesso questa cosa, è come dire carta stampata, significa sia il volantino del ristorante cinese, certo, sia l'enciclopedia Treccani, cioè quindi bisogna, sono videogiochi da 5.000 euro e altri da 200 milioni di dollari. Un mercato molto ampio. Ivan, noi ti diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, anche per conoscere direttamente il lavoro che fate, a Svilupparti, che esatto, è la festa, diciamo, dei videogiochi di tutto il mondo dello sviluppo, che si terrà, l'abbiamo già raccontato anche la settimana scorsa, alla Cineteca di Bologna l'11 e 12 maggio. E intanto ti ringraziamo, restiamo curiosi di mettere anche noi le mani sul Latino e la saga di Nicola Semenik. Grazie Ivan. Grazie, e buona giornata. Ciao. Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Ciao. E allora noi da Ticom Blu passiamo adesso a un'altra persona che lavora all'interno del mondo dei videogiochi. Questa volta si tratta di un animatore. Un buongiorno a Silvano Mezzatesta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, qui parliamo di grafica, anche lei ha lavorato molto, viene dal mondo dei cartoni animati, dall'animazione cinematografica, ha visto anche l'evoluzione della grafica all'interno dei videogiochi. Cosa è cambiato e come è cambiato il suo lavoro? Allora, intanto io ho un'esperienza ventennale, vengo dall'animazione tradizionale, che continuo a svolgere per fortuna puntualmente, insomma, sono... ho animato per molti film di Enzo Dalò, tra parentesi anche sull'ultimo Pinocchio, uscito da poco al cinema, e l'esperienza non è soltanto stata quella di passaggio dall'animazione tradizionale al 3D, è stata anche un'animazione di passaggio già dalla carta al PC, tavolette grafiche, programmi ad hoc per l'animazione, quindi già sotto questo punto di vista noi disegnatori siamo stati spesso e volentieri sballottati. In più abbiamo dovuto, diciamo, avere a che fare con un apporto non soltanto tecnico ma anche ritmico, con delle velocità molto superiori, delle potenzialità che ogni volta aumentavano. Soprattutto la giocabilità per quello che riguarda i videogame è molto importante, e la possibilità di sviluppare dei software che permettano determinati tipi di attività. Quando parla di giocabilità, vuol dire ad esempio che il personaggio non si muove solo in 2D, quindi certo, immaginiamo il classico Mario Bros che ha il suo percorso da seguire, ma insomma pensare anche lo spazio a 360 gradi, appunto, gradi, in 3D. Certo, la possibilità di aumentare la possibilità, la potenzialità di giocabilità, sia per quello che riguarda il giocatore, appunto, che per quello che riguarda anche la possibilità motoria del personaggio stesso. Diciamo che i tempi ovviamente sono stracambiati, anzi sotto molti punti di vista il lavoro che io per esempio porterò nel workshop del Film Festival il 17 di questo mese lì a Bologna si baserà proprio nella possibilità di utilizzare le tecniche diciamo così di disegno tradizionali sull'animazione e soprattutto per i videogame. Questo significa avere una certa libertà di interpretazione, soprattutto per chi come noi deve pensare, tra virgolette, ad altro, non soltanto all'interfaccia del videogame o alla sua, diciamo così, estetica computerizzata. Sotto il punto di vista animativo, chi fa il mio lavoro deve pensare ad altro, deve comunque concentrarsi sull'espressività, sulla possibilità di essere anche esteticamente validi, perché non ci si basa più soltanto sulla potenzialità motoria, ma anche sull'espressività motoria. I personaggi sono diventati molto più maturi, ci sono dei videogame ormai che hanno delle vere e proprie storie, basta riferirsi a Grand Theft o a Driver, sono dei videogame che ormai hanno una loro struttura di racconto che è, per così dire, storica, hanno, diciamo, delle strutture di narrazione molto complesse, dove i personaggi sono molto scolpiti, sono molto hanno delle personalità molto spiccate, quindi di conseguenza la possibilità che questi personaggi possano interagire in maniera molto più diretta non vale soltanto per quello che riguarda la possibilità di spostamento nel game, ma anche la possibilità di interazione con col giocatore. e su questo punto di vista la possibilità di partire come si parte per un qualsiasi lavoro cinematografico ormai è diventato molto importante, quindi lo studio di uno storyboard che si fa comunque in tradizionale, quindi su carta, tavoletta grafica, ormai la carta io personalmente non la uso più da almeno 4 anni, ma insomma lo studio è quello, rimane abbastanza fedele allo sviluppo di un prodotto in cinematografia, quindi lo studio del personaggio si svolge anche, comunque parte sempre dalla carta, e questo nasce anche soprattutto dalle esperienze Pixar, dalle esperienze diciamo di grandi major di animazione, di film 3D, produzioni cinematografiche in 3D. Cioè si parte da quell'esempio per poi portarlo diciamo invece in un'altra esperienza. Sì, anche perché di solito comunque i personaggi nascono sempre da una matita, in questo caso è una costante che soprattutto può consentire alla modellazione di sviluppare al meglio le sue caratteristiche, la possibilità di studiare le possibilità espressive in animazione tocca il suo apice quando si riesce ad unire la struttura grafica di un personaggio che di solito viene gestito in 2D per essere animato, quindi con sottostrutture disegnate, con punti di riferimento disegnati. Questa esperienza io spesso e volentieri l'ho portata nella possibilità di rendere gestibile il rigging dei personaggi in 3D. Questo perché spesso e volentieri quando il rigging sarebbe la struttura interna del personaggio, diciamo l'impalcatura interna del personaggio che consente di avere dei punti di mobilità per l'animatore, e quindi più questi punti sono diciamo così studiati prima, più si dà al personaggio potenzialità di movimento successivo, insomma si evita la rigidità dei movimenti, gli si dà una certa elasticità, come si dice in gergo stretch and squash, cioè si dà più possibilità di morbidezza dell'azione del movimento, più realismo, soltanto che queste cose diciamo spesso e volentieri arrivano ancora diciamo così trascinate dall'esperienza della carta. Io continuo a insistere con questo termine, ma insomma ci siamo capiti. Ma quante persone lavorano a una progettazione di questo tipo? Guarda, io ho lavorato come supervisore agli storyboard per il film I Gladiatori di Roma. Intanto premetto il fatto che la nostra versione di storyboard è di gran lunga superiore rispetto alla qualità definitiva del film, questo perché poi con il passare del tempo sono diciamo, sopraggiunte delle coproduzioni statunitensi che hanno un po' traviato l'incipit della storia. In linea di massima però in quel caso eravamo fra storyboardisti, layoutisti, animatori, modellatori, più o meno un 400 persone, però 350-400 secondo anche gli esterni. Qua stiamo parlando però di un colossal, se pensiamo invece a una produzione italiana di un cartone animato piuttosto che a un videogame. Un videogame può variare tantissimo, ci sono delle produttività estremamente piccole, molto, molto compatte. Di solito sono gli esordi in cui si parte in questa maniera e si può partire anche da una ventina di persone, insomma. Dopodiché chiaramente le esigenze che toccano anche la distribuzione, perché non è da sottovalutare questo aspetto, cominciano ad alzare la quantità di realtà. Il numero perfetto non esiste, perché poi questo dipende anche da quanto effettivamente si può spendere per la realizzazione di un game, ma di un prodotto qualsiasi a questo punto, diciamo come media. Chiaro. Audiovisivo a questo livello. Silvano Mezzatesta, il tempo c'è tiranno, quindi io al momento la devo salutare. Ricordo l'appuntamento all'interno dell'Expo Pixel, mercoledì 17 aprile in sala Magenta, percorsi di videogame. Appunto, insieme a lei ci sarà anche grazie, Fabio buon Corica. Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno. E allora, dicevamo appunto, il tempo c'è tiranno, sono le 9:27 minuti, rimane giusto il tempo di salutare e di dare un appuntamento, perché al Lab Store di Via Marsala, Lab Store organizzato da LUNA, l'Università Libera Università delle Arti di Bologna, dal 13 e il 14 aprile parte il corso di Arduino, e poi soprattutto da ogni sabato ci sarà l'apertura pubblica del laboratorio con le tecnologie di stampa 3D a disposizione del pubblico. Noi presto vi faremo sentire anche l'intervista con Andrea Sartori, che sarà il docente del corso di Arduino, che ricordiamo, oltre al corso e l'insegnamento, darà a disposizione anche il kit completo per cominciare a lavorare con Arduino. E poi di stampanti 3D, appunto, ne abbiamo parlato moltissimo. Crediamo che un punto a Bologna in cui cominciare a provare questa strumentazione sia molto importante. Allora il contatto è Luna Lab Store in via Marsala 25, lo trovate all'altezza di Piazza San Martino. Insomma, abbiamo scoperto un mondo veramente molto molto più complesso e stratificato di quello che a volte immaginiamo semplicemente mettendo le mani sulla console o sul computer o su qualunque altro strumento ci permetta di giocare, Damiana, quindi ci torneremo sopra. E però intanto direi che siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine, ma come sempre la nostra puntata la potete riascoltare sul sito di Radio Città del Capo, rcdc.it, così come anche tutte le puntate precedenti. Una buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.